l'Italia è un paese strano perché è in grado tanto di ricordare per sempre quanto di dimenticare, di abbandonare, di mettere da parte, di escludere chi è stato vittima di mafia allo stesso modo di quelle persone, chi ha subito sulla propria pelle quell'attentato allo stesso modo delle altre persone, ma ha avuto un'unica differenza e, se si vuole, anche un'unica grande colpa. Sì, uso questa parola colpa, quella di essere sopravvissuto. Allora, l'ospite che starà con noi fino alle 9, e lo ringrazio per questo, è un signore il cui nome e cognome magari non dirà molto alle persone. Io lo presento, si chiama Giuseppe Costanza, è con noi. Buongiorno Costanza e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, io dico non dirà molto questo nome e cognome, Giuseppe Costanza. Giuseppe Costanza, noi tra l'altro adesso ci diamo del tu, questa certo. Volta lo possiamo fare, certo. No, perché di solito agli ospiti si dà del lei, ma io non ci riesco con te. Giuseppe, tu dove eri il 23 maggio del 92? Il 23 maggio del 92 mi trovavo a bordo della macchina del dottor Falcone, condotta da lui, in quanto io ero il conducente di quella macchina, ma siccome la moglie si è seduta davanti perché preferiva così, il marito, quindi il dottor Giovanni Falcone, si poneva alla guida e io mi sedevo dietro nei sedili posteriori. Ci avviamo verso Palermo in quella tragica mattina, dove percorrendo quella strada si parlava del più e del meno con molta serenità. Non c'era nessun allarme che potesse far pensare un attentato, perché ormai vivendo a Roma non aveva più questa preoccupazione. Strada facendo mi disse che è arrivato a Palermo, lui avrebbe continuato il suo iter, aveva un incontro con qualcuno, non aveva più bisogno della mia presenza. Quindi gli ho detto, arrivato a casa, allora mi ridà le mie chiavi in modo che io possa riprendere la macchina lunedì mattina per riaccompagnarli in aeroporto. Questo mentre eravate sull'autostrada dall'aeroporto Punta Raisi verso Palermo. In quel percorso che partivamo dall'aeroporto a Palermo, quindi era un breve tratto praticamente. Lui invece, istintivamente, non so, era stato a pensiero, ha tolto le chiavi, spegnendo la macchina praticamente. Io richiamai dicendogli: cosa fa, così ci andiamo a ammazzare. Lui annuì, mi chiese scusa, dice scusi, ma mi poggia le mie chiavi e inserisce le sue. Quello è stato l'attimo che io ricordo con precisione, perché poi non ricordo più nulla, poi c'è stato un risveglio in ospedale, quindi ritengo che sia stato in quel momento che è avvenuta l'esplosione. L'esplosione di Capaci. No, questo però, il punto di partenza è questo, cioè Giuseppe Costanza, se avete capito, era l'autista, il conducente dell'auto di Giovanni Falcone. Io vorrei già sapere quante persone lo sanno in Italia, non so, tante, poche, cioè Giuseppe Costanza era lì, su quell'auto, è sopravvissuto. Ma a questa terribile esplosione. C'è un fatto strano in Italia si vive di morti. Purtroppo, mi dispiace dirlo, giusto ricordarli, per carità, hanno dato la vita per servire lo Stato, ma chi rimane vivo che colpa ne ha? Cioè, mi hanno fatto pesare questa mia sopravvivenza, perché io ero escluso da tutto e sono escluso da tutti, attenzione. Perché tutt'oggi io, a distanza di 20 anni, non ho mai avuto questo ricordo, farmi la presentazione di chi si è immolata a eroe, non so per quale titolo e a quale fine, invece di stringersi accanto i sopravvissuti che hanno vissuto quel tragico, e non soltanto quel tragico momento, perché io lo seguivo dal 92 dall'84 al 92, e invece si tenta di emarginare, di non mettere accanto a sé e dare un aiuto anche morale, perché io non ho trovato questo aiuto morale, anzi hanno cercato di mettermi, di accantonare. Questo è un punto molto interessante, Giuseppe, tra poco ci arriveremo. Intanto vorrei capire questo: 8 anni sei stato l'autista di Giovanni Falcone. 8 anni, e ne ho visti tante, sa? Non è che ne ho visti una sola. In 8 anni, guarda che ho vissuto il pericolo. Io avevo una guerra in casa e una guerra fuori, non vivevo sereno, perché a casa mia giustamente vedevano il pericolo a cui andavi incontro, perché si usciva la mattina e non si sapeva se la sera si rientrava, e una guerra fuori, perché vivere con l'attenzione, con il problema che qualsiasi momento si potesse saltare in aria, non era certo bello. Voglio ricordare anche il fallito attentato all'Addaura, dove io ero presente. Non c'era qualcun altro che oggi salta sui palcoscenici. Io ero lì. Io sono stato a Capaci. Io c'ero a Capaci. Io c'ero all'Addaura. Io c'ero nei momenti in cui si correva il pericolo. Noi infatti abbiamo titolato questa puntata "Io ho visto", perché questo è, tu hai visto, tu eri lì e hai vissuto sulla tua pelle, purtroppo, quello che poi è finita con la tragedia di Capaci. Facciamo così, Giuseppe, noi ci fermiamo qualche minuto e poi appunto continuiamo questo racconto. Se avete capito, Giuseppe Costanza è stato per 8 anni l'autista di Giovanni Falcone, era lì anche quel 23 maggio del 1992, questo senza falsa retorica, tanti parlano ed è giusto che tanti parlano, tanti ricordano, però Giuseppe Costanza, il suo nome e cognome che ripeterò all'infinito in questo spazio, non viene mai ricordato, non viene citato tra le vittime di quella strage di Capaci. Perché? Perché è qui a raccontarcelo, buon per lui, fortunato lui, bene, è sopravvissuto. Se volete dirci qualcosa, i numeri per i vostri sms sono il 349-238-6666. Se volete anche telefonare, 800-24-0024 in diretta. Giuseppe Costanza è l'autista di Giovanni Falcone, ci racconterà qualcosa del dottor Falcone, della sua vita invece, sua, di Giuseppe Costanza, soprattutto dopo quel 23 maggio 92. Siamo qui 24 allora. Mattino. Sono le 8:36 minuti. Ho tanta voglia di entrare in diretta e rientrare con il racconto di Giuseppe Costanza. Allora, Giuseppe Costanza era l'autista, è stato il conducente della macchina del dottor Giovanni Falcone per 8 anni. Guarda, Giuseppe, stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che solo ti ringrazia, gente che dice "io non lo sapevo", vedi, perché questa è la verità, non sapevo che c'era un sopravvissuto, non sapevo che c'era una persona a bordo di quella macchina saltata a Capaci con una persona che è qui pronta a raccontare, ed è incredibile in quest'Italia che questa persona non abbia raccontato in questi anni o non abbia avuto lo spazio giusto per dire, ma oggi ci racconta qualcosa di chi è Giuseppe Costanza. Giuseppe, intanto, perché Giovanni Falcone ha scelto te a fare da conducente? Io dopo, quando sono entrato in servizio, non facevo l'autista, cioè ero addetto alla segreteria del dottor Falcone. Siede lì una 15ina di giorni, così, poi mi fece chiamare da una segretaria, dove dice "dottor Falcone desidera Costanza". Sono andato dal dottor Falcone ponendomi delle domande, dove abitavo, chi erano i miei familiari, ma lui già era a conoscenza di tutto quanto, perché ho potuto capire che aveva fatto delle indagini, e mi chiese se volevo guidare la sua macchina. Ritorno a dire, io non sapevo chi era il dottor Falcone, l'ho appreso dopo. Era il 1984. E così iniziai a guidare la sua macchina, e nel tempo c'è stata molta fiducia, mi ha dato tanta fiducia, tanto è vero che non contattava l'ufficio, ma contattava lei a casa per i suoi movimenti. E quella mattina mi chiamò alle 7 di mattina per comunicarmi l'arrivo e di allertare la scorta, quindi la scorta veniva allertata da me che stava arrivando il dottor Falcone. 8 anni insieme, 8 anni sempre insieme. Fino a quell'attentato appunto di Capaci. Ora avviene una cosa incredibile, qui va detto, io non ho paura anche di dire nomi e cognomi, Giuseppe, come sai. Sì. Allora avviene una cosa incredibile, Capaci, c'è l'attentato, quanto rimani in ospedale tu? Guarda, circa un mese, saranno state 25-20 giorni, una cosa del genere. Poi ovviamente ti rimetti faticosamente ed entri e vuoi rientrare in servizio, e qui succede la prima cosa, che succede? Lo Stato come risponde? Le istituzioni cosa dicono? Qui è una cosa tragica, perché io rientro in servizio e la mia destinazione naturale dovrebbe essere quella dell'ufficio automezzi, dove avevo una competenza, visto che non ero più in grado di condurre delle macchine. E così è stato, sono rientrato, ma intanto mi hanno messo a fare il commesso, a fare fotocopie, vai qua, vai là, insomma ero il tappabuchi, non c'era una mia definizione, addirittura il ministero mi ha degradato a commesso. Degradato? Sì, perché io ero conducente, no, mi ha riportato a commesso perché non ero più idoneo a svolgere quella funzione. E perché è degradato? Perché così funziona in Italia. Chi ha dato tanto per lo Stato, parte della propria vita, poi viene ricompensato così, perché la burocrazia, l'incompetenza di dette persone che occupano determinati posti è deplorevole. Non so come arrivano a coprire determinati incarichi. Io qui stiamo parlando della Procura di Palermo, non stiamo parlando di chissà che. Ero proprio messo all'angolo, cioè queste persone, funzionari che dovrebbero starti accanto anche moralmente, ti buttano giù perché questo è quello che mi dicevano di fare e io dovevo farlo. Ma questo vuol dire, è lì che nasce, io lo so che è una cosa terribile, una sensazione che però tu hai provato, l'idea di dire era meglio morire a Capaci. Ma sicuramente io ho trascorso, guardate, 10 anni dopo l'attentato, che è stato peggio dell'attentato, quello che mi hanno fatto fare. Io andavo in ufficio, mettevo una firma all'entrata per poi rimetterne un'altra all'uscita. È deprimente per colui che è stato operativo per tanti anni, è la mortificazione più grande che possano fare a qualsiasi essere umano, che sia una persona che voglia dare un contributo allo Stato. Ma lo Stato a volte viene trattato male da chi avendo svolto determinate funzioni poi si rende conto che non vale veramente, però no, che non danno spazio. Però non finisce lì. Il primo anno, 23 maggio 93, primo anno della ricorrenza, ovviamente ci sono le cerimonie. Questo è tutto da ridere, guarda. Al primo anno della cerimonia chi viene? Il capo dello Stato, la massima autorità, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Giuseppe Costanza non viene neppure invitato. È così. Già, è vero, è vero. Guarda, io ho saputo attraverso la stampa che veniva allora appena eletto Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica. Sì, eletto pochi giorni dopo l'attentato di Capaci, tra l'altro. Sì. Sceso alla fondazione, che allora erano assieme la Morvillo con il Falcone, con la fondazione Borsellino Falcone, e mi presento in quella perché volevo incontrare anch'io queste autorità che venivano a Palermo. Lì c'era un servizio d'ordine dove chiedeva l'invito, io non ce l'avevo, non l'ho avuto, e mi hanno allontanato. Cioè Giuseppe Costanza, l'autista di Falcone, saltato in aria a Capaci, sopravvissuto, è stato allontanato dalle celebrazioni di Falcone. Beh, ma dico io, le istituzioni, e quindi parliamo dal capo dello Stato a scendere, no, non parlo io a Vandera, faccio nome e cognome, non dovrebbero vigilare, quantomeno vigilare che quelli che hanno vissuto una tragica esperienza di questo tipo non vengono messi accantonati, cioè messi completamente distratti, e si mette in evidenza altre persone che a Capaci non c'erano. Io c'ero a Capaci. Lo vogliamo ricordare, la fondazione era gestita allora e anche adesso da Maria Falcone, cioè la sorella del giudice Falcone. Sì. Io questa cosa dobbiamo dirla, perché quando io sono venuto a Palermo, ci siamo incontrati varie volte, tu mi hai detto, io la sorella del giudice Falcone, io non l'ho mai conosciuta quando facevo l'autista di Giovanni Falcone. Io non ci sono mai andato ad accompagnare il dottor Falcone a casa della sorella, io non l'ho mai vista. E poi, giustamente, sulla sorella, per carità, nulla osta. Ma perché? Io ancora oggi mi chiedo perché questo accanimento di isolamento da parte di chi si dovrebbe cullare delle persone che hanno avuto, stanno accanto al dottor Falcone. Per vent'anni non sei mai stato invitato. Non sono mai stato invitato. Quest'anno invece l'invito è arrivato. Voglio fare una precisazione. Quest'anno il ministro Profumo, ministro dell'istruzione, mi ha inviato l'invito e voglio ringraziarlo pubblicamente per questa sua sensibilità, ma che non si fermi ad oggi, che dia un segnale di presenza. Faccio presente un'altra cosa: tutte queste fondazioni, associazioni, via discodendo, che vivono di contributi pubblici, vivono del nostro contributo. La collettività paga per mantenere queste fondazioni. Che ci sia un controllo, non gli si dà pieno potere. Il controllo ci deve essere, perché devono sapere giustizia, non dire qui comando io un bel niente. Ma domani quindi tu sarai alle celebrazioni? Me lo devo ancora pensare, non ho deciso. Io sono del parere che è giusto che la mia presenza ci sia, ma vorrei, prima di una mia presenza, essere contattato e non presentarmi lì così. Io ringrazio il ministro Profumo che mi ha mandato l'invito, ma prima di presentarmi lì vorrei un chiarimento, perché questa situazione non può finire così. Arrivo lì e che faccio? Con chi parlo? Chi sono quando io non vengo nemmeno considerato per vent'anni? Non stiamo parlando di un giorno, per vent'anni. No, ma è chiaro, ed eri lì a Capaci su quella macchina. Allora, diamo le informazioni sul traffico e poi l'ultima parte del racconto. Stiamo parlando con Giuseppe Costanzo, è una storia incredibile. L'autista di Falcone per 8 anni, saltato in aria a Capaci, era a bordo di quella macchina, per 20 anni è stato osteggiato, dimenticato, abbandonato, isolato da tutti. Perché? E questo perché è la domanda che lui si chiede e alla quale non c'è una risposta. Allora, siamo con Giuseppe Costanza, autista di Falcone, per 8 anni, saltato in aria a Capaci, e ci racconta perché lo Stato lo ha dimenticato. Ci sono tanti ascoltatori, io chiedo scusa, ma voglio ancora fare qualche domanda io a Giuseppe. Giuseppe, tu della strage di quel 23 maggio ci hai già detto non ricordi nulla, è un buco nero fino al giorno prima. Tra l'altro io lo voglio ricordare agli ascoltatori, da quel giorno, sono 20 anni, Giuseppe Costanza non ricorda più alcun sogno, è così? Stranamente non riesco a capire, perché inizialmente saltavo in aria durante la notte, mi svegliavo sudato, insomma evidentemente vivevo qualcosa che non mi riaffiorava alla mente, ma nel tempo questo, diciamo che sono riuscito a dominarlo, ma osservo questo, che io passo le notti, prima sognavo, prima c'era un divagare durante la notte della mia mente, oggi non c'è più, oggi non mi risveglio, mi sono svegliato ma non... Diciamo un buco nero. Non ho vissuto quella notte, ecco, perché di solito si vive anche nei sogni. E certo. Però tu, che non hai vissuto quella strage di Capaci, non ne hai memoria, invece il 19 luglio 92 sei andato come tanti in via D'Amelio quando hai sentito l'esplosione, 57 giorni dopo, e sei stato lì. Il giudice Borsellino, tu lo conoscevi, ti ha detto, che avrebbe provveduto a fare in modo che lo Stato non ti dimenticasse, non ce l'ha fatto ovviamente. Il dottor Borsellino venne a trovarmi in ospedale. E in quella circostanza io le chiesi che non volevo fare la stessa fine di un precedente conducente di automezzi speciale, Giovanni Paparcuri. Giovanni Paparcuri, lo voglio ricordare, l'autista di Rocco Chinnici. Unico sopravvissuto anche lui alla strage di via Federico Pipitone, sì. Anche lui dimenticato. Dimenticato. mortificato, addirittura degradato anche lui a commesso, mortificandolo. Anzi, poi il dottor Falcone lo ha caldeggiato, insomma, lo ha messo sotto la sua ala e lo ha inserito nel servizio informatico della procura. Sì, ma con funzione sempre di commesso, svolgeva tutt'altro. Il ministero, l'apice dove doveva gestire questa cosa, era un commesso, per il ministero era un commesso. E quel 19 luglio 92 tu cosa ricordi? Io mi trovavo a Carini presso una famiglia che insomma eravamo a pranzo e improvvisamente ho visto un silenzio, cioè osservavo che hanno spento la televisione, ho detto ma che succede? Dice no, niente, non c'è niente, però insomma non mi sembrava normale, allora ho chiesto di più, mi hanno detto che c'è stato un attentato a Palermo, dottor Borsellino. Mi sono messo in macchina immediatamente, sono arrivato sul posto e ho visto, guardate, la mia tragedia non l'ho vista, non l'ho vissuta, non la ricordo, ma quella lì, quella è stata una visione tremenda, tremenda, guarda. Quello che ho visto è raccapricciante, quello che hanno fatto, con quale ferocia, ma io non lo so, perché? Lo vogliamo ricordare, anche lì c'è un sopravvissuto, Antonio Vullo, anche lui. Antonio Vullo. Unico sopravvissuto di Via D'Amelio, ma anche lì la gente lo dimentica. È una persona che ancora a distanza di 20 anni sogna di passare e si risveglia di passare sui pezzi di corpi dei suoi colleghi. Ma guarda, in Italia è strana, è un'Italia strana, perché vengono caldeggiate persone che si mettono in evidenza, vanno avanti con la complicità dei politici, perché diciamola tutta, i politici che invece di vigilare che tutto si svolga regolarmente, mettono in evidenza persone che non c'entrano niente con la strage, per carità, sono familiari, benvenuti siano, ma che si permettono di emarginare chi per 8 anni ha dato un contributo allo Stato rischiando la propria vita. Se io morivo anche i miei familiari ne avrebbero, come ne hanno subito, un danno, perché chi rimane vivo, guardate, io sono morto a Capaci, io sono vivo fuori, ma io dentro sono morto. Sono molto capace. Fermati qui, Giuseppe, non ci sono grandi parole da aggiungere. Io cosa devo fare? Ti ringrazio, ovviamente ti manderò tutti i messaggi della gente che vuole stare vicino a te, idealmente, che ha ascoltato la tua storia, abbastanza incredibile. Ti posso chiedere in 10 secondi, secondo te, cos'è lo Stato? Che definizione daresti dello Stato? Attenzione, non generalizziamo. Perché io ho potuto osservare che nello Stato ci sono persone sane, corrette, che vogliono dare un contributo vero allo Stato, ma ci sono invece politici che si mettono in evidenza, come per esempio una cosa che voglio dire apertamente, io non voglio essere rappresentato al Parlamento di persone che hanno carichi pendenti che possono essere che sono inquisiti per determinate io non voglio essere rappresentato da questa gente. I partiti che vanno a candidare queste persone per me non meritano il voto, ma non solo mio, ma di tutta la collettività civile che vive nella speranza di poter dare una svolta a questa Italia, perché non se ne può più. No, ma detto da te è assolutamente una cosa condivisibile. Io, Giuseppe, devo finire, vorrei fare conoscere la tua storia per ore, ma non è escluso che lo faremo. Grazie ancora. Giuseppe Costanza, lo voglio ricordare, ricordatevelo questo nome, cognome, questa puntata poi sarà riascoltabile da tutti. Era l'autista di Giovanni Falcone, era lì a Capaci e lui ha visto e lui è saltato in aria. 24 mattino.